Rassegna eventi. Rieccoci qua sulle frequenze di Radio Wombat 1359 AM o http. wombat.noblogs.org. Ciao. Eventi della settimana. Allora, cominciamo subito perché uno è già in corso e si svolge ogni lunedì presso l'occupazione di Viale Corsica, o meglio l'area cane occupata. E ogni lunedì hanno alternati ogni lunedì all'area cani, un lunedì dentro l'occupazione, con cena condivisa, musichetta, birrette e frescheggiare. E parte alle 5:30, quindi noi chiudiamo la puntata e ci dirigiamo là e ci auguriamo di trovarvi. Poi Buono. Si prosegue con il martedì, ci accennavi prima. Sì, il 26 ci sarà l'evento Hack Meeting Warm Up, guida all'autodifesa digitale in quel di Polveriera, che comincerà alle 18:30 e finirà alle 21:30, in cui ci sarà una presentazione di che cos'è l'Hack Meeting, che è un evento che si svolge ogni anno, un incontro delle controculture italiane. Quest'anno si svolgerà a Genova dal 6 all'8 luglio, e domani in Polveriera ci sarà questo evento di avvicinamento alle tematiche dell'Hack Meeting, sfruttando la presentazione, cioè una mini presentazione sia di che cos'è l'Hack Meeting sia della guida all'autodifesa digitale che sta uscendo, che comincia a uscire adesso col primo numero, traduzione italiana, francese, da una guida francese molto ben fatta e per beginner. E basta, questo è il 26. È specificato che l'iniziativa è riservata ai soli hacker. Cosa vuol dire però? Vuol dire chi è, cos'è un hacker? È chi non accetta passivamente spiegazioni pronte sul funzionamento delle cose, ma si sforza sempre di capire come funzionano gli oggetti, curioso ovunque, non crede nei sistemi chiusi, ma nella libertà e nella condivisione, anche se non ha mai toccato un computer in vita sua. Quindi, insomma, aperto a tutti i vogliosi. Poi saltiamo al mercoledì, non ho giovedì, visto niente, però mercoledì naturalmente Mameno inceneritore al presidio, alle ore 19 ci sarà un grande abbraccio che cercherà di arrivare fino a Sesto, fino al comune Sesto, a partire dal polo scientifico, alle ore 21 una cena comune e poi musica, birrette e quant'altro. Il giovedì invece abbiamo un bel po' di eventi, perché ci sarà innanzitutto lo spazio Inchiostro nel pomeriggio, la presentazione di un libro che abbiamo avuto il piacere di conoscere l'autore, ovvero 108 metri di Alberto Prunetti. Oddio, non mi ricordo a che ora inizia di preciso, ma trovate tutto sulla pagina dello spazio Inchiostro. Sempre giovedì al CSA Next Emerson il Chioschini. Fuck the Chioschini 2.0. Venite a passare una serata nel giardinetto del Next Emerson in compagnia di... ci sono un sacco di ospiti. Dalle 17 alle 19 Open Fan Console, e poi dalle 19 alle 23 Mimmi e Pise. Yes. O Pise. Pise. Afro Air Group Cosmic World Funk Walk Selection. Oh yeah. Crujo da Rifredi e Puppet. Alla griglia, ci sarà la griglia per farci la ciccetta, Benefit da Rifredi ad Afrin. La lotta per il Rojava libero è appena cominciata. E il nostro caro Moder a fare cocktail. Tutto organizzato da Rifredi ad Afrin in collaborazione con Machine Funk, e che organizza anche un altro evento il giorno dopo, ma sempre giovedì, c'è prima di questo la Critical Mass di giugno. Sì, che è una particolarità. È una particolarità la Critical Mass di quest'anno. Sì, e in verità cercherà di essere infinita, nel senso che ritrovo, è come sempre, l'ultimo giovedì del mese, in questo caso il 28, alle 18:30 in piazza Santissima Annunziata. La partenza sarà presso più o meno alle 17:30, alle 19:30, scusate. E la biciclettata, la Critical, continuerà fino a che non si esauriranno le forze e le voglie, quindi chi vuole potrà farsi anche tutta la notte. Viva! Il venerdì, viva, come dicevo, invece al CPA Machine Funk e Dari Frida Daffin organizzano un altro benefit per la lotta curda, per la resistenza curda, con Antifa Flow, e si alterneranno sul palco Ninja & Co, Nano 3 più Trains and Rini Toscani, Cani Toscani, Ci sarà il lancio del nuovo album di Nano 3. E poi da Retta, Nanne, da Kilo, DJ Kawa, insomma, ci sarà da... Lunga serata. Free Entry, Bar Popolare e Aperello. Come dicevamo, invece, nella in Fuoco alle Polveri, sempre il 29 inizia la tre giorni di compleanno della Fattoria Senza Padroni di Mondeggi. Eh sì, sono passati quattro anni da quando hanno occupato e anche quest'anno lo festeggiano con tre giorni intensi pieni di eventi. Iniziando il venerdì 29. Non leggiamo il programma? Ma sì, sì, al volo ci saranno lavori collettivi a partire dalle accoglienza dalle 3 per arrivare per alzare le tende nel campetto di ulivi e poi si iniziano con i lavori collettivi per apportare migliorie alla fattoria. Si seguirà un laboratorio di teatro sociale alle ore 18, la scena ovviamente, dopodiché per fare un po' di salterelli e amicizia, concerti con le figliole, musiche popolari dal mondo e causa che fanno scapunk. Andando avanti, poi sabato 30 la giornata inizia presto alle ore 8, lavori collettivi. Quindi la vangatura del frutteto, le canaline delle strade e la raccolta della legna, come ci dicevano i compagni di Mondeggi, proseguendo poi alle 10.30 con tavoli politici sul mutualismo, sui beni comuni, sui territori di resistenza, come loro. Alle 13 il fantastico pranzo. Pranzone, tavoli politici, poi a seguire, lavori collettivi che continuano, acconciatura vigna, bella acconciatura. Sì. E poi Theatrical Tribe, laboratorio di teatro sociale. Alle 17.30 cena e spettacolo appunto con il teatro contadino libertario. Sì, fra l'altro spettacolo teatrale itinerante, bisogna precisare, nel senso che si sposterà all'interno dei Mondeggi. A suonare i Bleh, che è un dub elettro strumentale, i 43 Factory live and DJ set. Applausi. Bravi. Finisce tutto con domenica 1, alle 9.30, vabbè, Polizia del Bosco di Mondeggi, pranzo alle 13 e dalle 15 Theatrical Tribe, laboratorio di teatro sociale. Per i più piccoli vi saranno dei piccoli laboratori, uno il sabato alle ore 15, il massaggio Una Storia con l'operatrice Tuina, a seguire le danze creative. Invece domenica pomeriggio sarà aperto il fantastico Parco Giochi di Mondeggi. E durante tutti i tre giorni ci sarà il cocchiere del Chianti che porterà a giro in carrozza grandi e piccini e i compagni di Mondeggi forniscono anche un po' di informazioni utili, ovvero durante tutti e tre i giorni sarà attiva l'area bambini appunto, poi come tutti gli anni sarà allestita un'area campeggio con docce e bagni, si prega di non portare i cani, l'area parcheggio è indicata a zona Rusciano e Cerreto. Ingresso ovviamente gratis, pasti e bevute invece a prezzi popolari con i prodotti di Mondeggi o data rete di Gianino clandestino locale. E fondamentale, tutto il ricavato servirà a sostenere il progetto. Tutto il ricavato, ma aggiungo anche tutto il contributo, il lavoro, l'apporto fisico. Quindi sì, i lavori che bisogna fare in uno spazio del genere. Sì, e dai. Se proprio volete essere bravi, bravi, bravi, vi portate dietro anche un bel piatto di plastica, un bicchiere di plastica, non monouso, diciamo così. Non lo si getta, e così solleverete i compagni di Mondeggi almeno un pochino del grande lavoro che dovranno fare. E con questo mi pare sia tutto. Sì. Allora, sicuramente avremo dimenticato un sacco di cose, ma va bene così. Va bene, ci perdoneranno ascoltatrici e ascoltatori. Ci sentiamo la settimana prossima. Bella, Wombat.